in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla rassegna stampa dei quotidiani italiani, di Radio 24 naturalmente, e cominciamo come sempre dal Corriere della Sera. Devo dire che oggi i titoli sono abbastanza diversi, anche se poi ci sono dei temi di cui tutti si occupano, però i titoli veri e propri, le prime pagine, sono appunto non tutte uguali, a volte capita, oggi è uno di quei giorni invece in cui ognuno ha fatto la sua scelta. Il Corriere della Sera apre sulla questione delle case occupate, che sicuramente è scoperta piatta qui a Milano, ma Milano non è l'unica città dove c'è questo problema. Il titolo è: case occupate, i prefetti agiscano, perché il Corriere della Sera ha un'intervista al ministro Lupi, il ministro delle infrastrutture, che suggerisce per esempio di staccare le utenze, e poi si sottolinea nel sommario che 3 volte su 4 gli abusivi sono stranieri. Il Corriere della Sera però ha anche grande spazio, perché lo mette, come a volte vi dico usando lo stratagemma, diciamo così, del palchettone, cioè il titolo principale è quello che vi ho detto sugli alloggi popolari e sulle occupazioni, però subito sotto la testata c'è quest'altro richiamo a una serie di articoli che poi sono all'interno, ed è sul caso Cucchi, di cui avete naturalmente sentito anche nei GR. In questo caso l'articolo richiamato in prima pagina è quello di Giovanni Bianconi, intitolato "Tutti gli incredibili errori del caso Cucchi", e poi ci sono altri articoli a pagina 4 e 5. La fotonotizia è dedicata a Barack Obama e al voto, l'America verso il voto. Sapete le elezioni, le cosiddette elezioni di midterm, che si alternano, sono 2 anni dopo o in mezzo alle elezioni presidenziali, quindi le ultime elezioni presidenziali nel 2012, martedì prossimo, perché in America si vota sempre di martedì, il primo martedì di novembre, martedì prossimo il voto che rinnova parzialmente il Congresso americano, le due camere, e quindi la fotonotizia, l'America verso il voto. E secondo molti osservatori, siccome c'è il rischio effettivamente che i democratici perdano il controllo del Congresso, l'ultima carta di Obama è quella del voto delle donne, e come vedremo anche dopo in molti articoli all'interno dei giornali, c'è stato appunto questo proclama di Obama che ha chiesto la parità, la vera parità retributiva tra uomini e donne. La prima pagina della Repubblica, in questo caso la fotonotizia, partiamo da questo perché è un argomento su cui torna solo la Repubblica, ed è quello dei guerriglieri in generale reclutati o in Europa o magari anche nei loro paesi, che magari passano appunto tra le file dei fondamentalisti islamici. E allora Giuliano Foschini e Fabio Tonacci ci raccontano appunto questi pentiti della jihad, libri, video e rituali di morte, così ci ha reclutato la jihad. 3 uomini tunisini che sono stati nei campi di addestramento militare in Afghanistan raccontano pure la loro esperienza a questi due giornalisti di Repubblica. Trovate poi tutto il reportage alle pagine 12 e 13 della Repubblica. Interessante anche, come sempre la domenica, l'analisi politica di Ilvo Diamanti, che parte da una serie di dati raccolti in alcuni sondaggi, e la sintesi che poi Diamanti fa è: il popolo del PD non crede più nel sindacato. C'è soprattutto il sindacato inteso come CGIL, per esempio subito in prima pagina la Repubblica mette i dati del 2009, 2011, 2014 della risposta, quanta fiducia prova nei confronti della CGIL. Nel caso degli elettori del PD si è passato dal 61% del 2009 al 24% del 2014. Come vi dicevo, il caso Cucchi un po' su tutti i giornali, quindi anche in questo caso viene richiamato in prima pagina. Ma il titolo di apertura della Repubblica riguarda la legge Severino, sapete, quella che tra le tante cose impone anche di decadere dai pubblici uffici se si è condannati, che è naturalmente quello che è successo a Berlusconi, che era successo a De Magistris, che però poi, come sapete, ha vinto il suo ricorso al TAR, e quindi l'ex sindaco di Napoli è tornato a essere sindaco di Napoli. E allora il titolo: la legge Severino cambia, ma il governo dice no a norme pro Berlusconi. Questa è la sintesi che fa la Repubblica di quello che è trapelato ieri, e l'analisi è di Liana Minella, e poi Milella, e la trovate alle pagine 2 e 3 con anche altri articoli. Il Sole 24 Ore, come vi dicevo, oggi le aperture sono diverse, quindi oggi il Sole 24 Ore torna sullo stato di avanzamento delle riforme e spiega: mancano 429 decreti, le riforme sono state attuate solo al 53%, e pensate, per 180 79 provvedimenti è già scaduto il termine. All'interno, alle pagine 2 e 3 del Sole 24 Ore, trovate tutti i dettagli su questo appunto fact checking, noi lo chiamiamo rating 24, che ci spiega come le riforme, a volte possiamo dire strombazzate, poi non vengano attuate, soprattutto perché appunto mancano i decreti, e quindi l'attuazione delle riforme dei governi, tra l'altro, non è un problema che riguarda solo il governo Renzi, ma anche questo rating 24 prende in esame le riforme degli ultimi tre governi, cioè i governi Monti, Letta e Renzi. Ci sono per esempio in stand by i voucher per il lavoro, tutto quello che riguarda le PMI e il piano per l'export. Molto interessante oggi anche l'articolo di Claudio Gatti, che ha una notizia che sugli altri giornali non trovate, cioè come ci sia una stangata in vista per le prime otto grandi banche del mondo, di italiano non c'è nessuno, che hanno accantonato 8 miliardi di dollari, il titolo Tassi manipolati, stangata in vista. E naturalmente l'inchiesta che va avanti da tempo su questi colossi della finanza che si sarebbe in qualche modo accordati per manipolare i tassi. Allora vi leggo la prima parte dell'articolo di Claudio Gatti, che poi continua a pagina 8. Altro che stress test, qui il test che ci vorrebbe per le grandi banche mondiali è l'integrity test, l'esame di rettitudine. A 6 anni dall'esplosione della più grave crisi finanziaria e economica della storia moderna, e vi ricordo è questo 6 anni perché si prende come inizio della crisi il crack di Lehman Brothers, che risale a settembre del 2008. Quindi a 6 anni appunto dall'inizio di quella crisi, per i colossi della finanza internazionale sembra che le regole rimangano tuttora un optional. E vi segnalo anche un articolo di Paul Krugman, premio Nobel per l'economia, la mossa di Tokyo e la lezione dimenticata. Sapete che Tokyo ha annunciato una nuova fase di quantitative easing, cioè di immissione di liquidità nel sistema, e però forse appunto Paul Krugman ci spiega forse c'è quella che in macroeconomia viene chiamata la trappola della liquidità, in cui il Giappone ma anche altri paesi sono già caduti, ed è un rischio naturalmente che si corre quando il quantitative easing dura troppo. Sapete che la Fed per esempio ha annunciato che per quanto riguarda l'America questa leva che hanno le banche centrali non verrà più utilizzata per il momento. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo anche, come ogni domenica, la lettera risparmiatore di Vittorio Carlini, che oggi si occupa di un'azienda del business degli utility, la IREN, che vuole crescere, ci spiega Vittorio Carlini, nel business regolato. A pagina 18 trovate l'analisi, una pagina intera, e consiglia ai risparmiatori perché o perché no investire in questa azienda quotata. La prima pagina della Stampa, anche in questo caso il palchettone è dedicato a Cucchi, il giudice basta gogna, niente prove su Cucchi, quindi qui l'enfasi è appunto sulla reazione del procuratore di Roma, che ha detto le prove non sono state trovate, e da qui appunto la sentenza, l'assoluzione, come sappiamo, di tutti i poliziotti coinvolti. Ma il titolo principale della Stampa in questo caso è proprio riguarda l'America, stipendi e lavoro, così le donne restano indietro. Naturalmente si prende come spunto l'affermazione di Obama, che riguarda soprattutto gli Stati Uniti, ma poi all'interno, alle pagine 2 e 3, si cerca anche di capire qual è la situazione in Italia e in Europa in generale. Molto interessante anche in questo caso una cosa che ha solo la Stampa, un approfondimento su Ebola. Oggi non ci sono molti altri articoli sugli altri giornali, anche se sicuramente il virus continua la sua vita e la sua propagazione, si spera anche che arrivi presto il vaccino, perché continua anche la ricerca sul vaccino. E allora Mastro Lilli ci racconta le storie di chi è sopravvissuto. Alle pagine 8 e 9 trovate questa inchiesta di Mastro Lilli, che appunto ha intervistato due sopravvissuti. La foto notizia è collegata a questo, ed è una foto dell'infermiera Nina Pham con il suo cane Bentley, che è l'infermiera di Dallas, che era stata appunto contagiata dal virus Ebola, ma che adesso è stata dichiarata guarita. Dall'Avvenire, l'apertura è dedicata alle parole di Papa Francesco nella festa di Ogni Santi. Papa Francesco ha denunciato la tentazione di sostituire Dio, chiede di uscire dal relativismo, e il titolo scelto dall'Avvenire è I devastatori si convertano. Ma ci sono molti altri articoli interessanti, un reportage in particolare di Pino Ciociola dalla campagna, dalla terra dei fuochi, e come forse ora si cominci ad avere nuovi elementi per continuare l'inchiesta su questo disastro ambientale, perché, spiega Pino Ciociola e titola L'Avvenire, l'omertà è stata spezzata, quindi molte persone parlano appunto di quello che è successo. Abbiamo tempo ancora per un paio di prime pagine. Il Messaggero, manovra e lavoro doppia fiducia, vedete anche qui un titolo diverso, quindi sono quello che succederà la settimana prossima, il governo chiederà appunto la fiducia su questi due provvedimenti. E poi la fotonotizia dedicata a Massimiliano Latorre, uno dei due Marò sotto inchiesta in India, che però in questo momento è in Italia per curarsi dopo che aveva avuto un ictus in India. Il Marò: tornare in India, lotto e non mi arrendo. E poi comunque anche la vicenda Cucchi, il presidente appunto della Corte d'Appello di Roma: è vero, qualcuno l'ha pestato, però se non ci sono le prove la condanna è impossibile. Ultimissimo titolo, quello della Gazzetta. Ieri ci sono stati due anticipi, la Roma è stata battuta, lo sapete, c'è naturalmente anche sul Messaggero grande spazio a questa partita dove il Napoli ha mostrato il meglio di sé, canta Napoli, e la Juve però balla da sola, perché adesso la Juve è tornata in vantaggio di 3 punti sulla Roma. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, abbiamo visto come oggi le aperture siano diverse, quindi abbiamo visto i principali quotidiani italiani. Ora vediamo il Giornale, che si dedica invece allo famoso sblocca Italia, è stato analizzato nei minimi dettagli dal Giornale, e il titolo scelto è Tasse sulla casa per le mance al sud. Nello sblocca Italia ci sono infatti 200 milioni per opere da realizzare nelle regioni dove si vota. E poi c'è un accenno a quello che ieri ha detto Berlusconi, tra le sue condizioni per non uscire dall'euro. La fotonotizia però è dedicata a Maurizio Landini, il segretario generale della FIOM CGIL. Il titolo è Il lavoratore che non lavora da 30 anni. Naturalmente il riferimento è al fatto che Landini da 30 anni si dedica praticamente a tempo pieno al sindacato, e naturalmente uno può essere d'accordo o non d'accordo, però per fare il sindacalista a tempo pieno, quindi diciamo per farlo bene, probabilmente è necessario appunto rinunciare a un'occupazione diversa in fabbrica, diciamo. Questo non significa, secondo me, che poi non si possa conoscere che cos'è il lavoro in fabbrica. Comunque il titolo del Giornale è questo. C'è poi l'editoriale di Vittorio Feltri: i plebei padani sono più innocui dei dimostranti, e il punto di partenza è questo sondaggio che vede Matteo Salvini molto in salita, sia come segretario della Lega, preferenze personali, come dato di gradimento, sia per la Lega. Appunto, Matteo Salvini è il segretario della Lega, che è data in forte ascesa. Addirittura, dice Vittorio Feltri, definisce Matteo Salvini il rianimatore, capo e rianimatore della Lega, data per morta, che ora invece è galoppante e in rimonta, e che potrebbe arrivare, secondo alcuni sondaggi, addirittura al 20%. La prima pagina di Libero: una montatura, le botte agli operai. In questo caso il riferimento è agli scontri che ci sono stati, e vengono mostrati, per la verità, molto sfocati, però in realtà si capisce quello che sta succedendo. Due fotogrammi del video famoso in cui si vede la polizia manganellare gli operai. Questi fotogrammi però mostrerebbero che in realtà uno degli operai è stato spinto da un altro collega che era nel corteo. Quindi un video prova che la polizia non ha picchiato, la FIOM ha attaccato e fatto cadere i compagni in corteo, così il sindacato ha potuto protestare e farsi ricevere dal Premier. Come sempre, più che una fotonotizia, è una notizia illustrata da una caricatura di Benny al centro della prima pagina di Libero. Il titolo è Anche Renzi è un mio cicciobello, ed è un'intervista lunga come quella di settimana scorsa, forse la ricorderete, a Rosi Bindi, sempre di Barbara Romano. La trovate a pagina 9. L'intervista è a Francesco Rutelli, che Barbara Romano sintetizza così nel titolo il senso dell'intervista: Anche Renzi è un mio cicciobello. Sapete che Rutelli si sta negli ultimi giorni attribuendo una serie di paternità, perché ieri ha detto, quando c'è stata la nomina di Gentiloni come ministro degli esteri: sì, era uno della Margherita, era uno dei miei uomini. Vedete quanto sono ancora importanti gli uomini della Margherita, anche se la Margherita non esiste più come forza politica. E oggi appunto Renzi in realtà è un mio cicciobello. E va bene. Il Giorno: teste, tasse, caos atenei. Qui il caso è quello degli 8.000 quiz di medicina, le 8.000 persone, gli 8.000 aspiranti specializzandi di medicina che dovranno ripetere il quiz perché sono state trovate delle irregolarità. Però ci sono anche tanti altri problemi nell'università, nel sistema delle tasse. Il Giorno ha fatto un'inchiesta su questo argomento. La Padania, poveri e incassati, abbiamo parlato prima di Landini, segretario generale della FIOM, qui il titolo della Padania, appunto, poveri e incassati, dove cassa soprattutto sta per cassa integrazione, gli enti locali sono trasformati in esosi esattori, le politiche suicida di questo governo massacrano la speranza del paese, sono oltre 1 milione i lavoratori in cassa integrazione dall'inizio dell'anno e metà è a 0 ore, una famiglia su quattro è in difficoltà, costretta a ricorrere a sussidi per vivere. Tra l'altro non l'avevo mai notato, ma ve lo dico perché oggi mi ha colpito stamattina, sopra il titolo della Padania c'è scritto in verde antidoto al renzismo e sicuramente la Padania, appunto, non, la Padania che è il giornale ufficiale della Lega, il giornale di partito della Lega, non lesina attacchi a Renzi, quindi appunto l'antidoto al renzismo si autodefinisce così la Padania. Vediamo il titolo del manifesto, come vi dicevo, ancora diverso, anche se anche qui in prima pagina c'è un riferimento alla questione Cucchi, ma il titolo principale è Laga Crack, dove il gioco di parole è con Laga Khan, che era stato, lo sapete, l'animatore, diciamo, della Costa Smeralda, che ha compiuto 40 anni proprio l'anno scorso, e che una delle tante cose che Laga Khan aveva fatto era una compagnia che proprio potremmo dire di bandiera della Sardegna, che una volta si chiamava Alisarda, che poi è diventata Meridiana, e però ora, sapete, Meridiana è veramente sul rischio del fallimento. Quindi la foto è di una dipendente di Meridiana con in mano un modellino gonfiabile di un aereo Meridiana e ha il capo chino, è sicuramente un'immagine che dà l'idea della disperazione di una persona che ha già perso o sta per perdere il lavoro. E quindi il sommario del manifesto: oltre 1.600 dipendenti in esubero, gli altri saranno dirottati sulla low cost Air Italy. La compagnia Meridiana, che nei sogni della Gacan doveva collegare la Costa Smeralda al resto del mondo, taglia le ali al lavoro. Dura la protesta da Olbia a Palermo, le magliette rosse, perché appunto questi dipendenti di Meridiana indossano una maglietta rossa, si incatenano insieme ai licenziati della multinazionale Accenture, e trovate tutto a pagina 2. Vi segnalo anche la prima pagina del Secolo XIX, il giornale di Genova, perché c'è un approfondimento sull'alluvione, l'alluvione 3 settimane fa, che così tanti danni ha fatto, e il Secolo XIX titola Alluvione, la beffa del fisco. Infatti sono state sospese le cartelle esattoriali, come era stato promesso, a chi ha subito dei danni, ma non gli avvisi di pagamento. Crescono tra l'altro i timori per le previsioni pessime, lo avete sentito anche adesso, questa che verrà sarà una settimana di grandi piogge e quindi è già stata allertata la Protezione Civile. La prima pagina del Fatto Quotidiano invece è dedicata proprio alla questione Cucchi, in realtà legata anche a tutte le crisi occupazionali, quindi Cucchi e gli operai pagano sempre i più deboli. E trovate poi, forse il Fatto Quotidiano è soprattutto in proporzione a quante pagine ha complessivamente, quello che dedica più spazio al caso Cucchi, e trovate infatti articoli a pagine 2, 3, 4, 5 e anche l'editoriale di Marco Travaglio è in parte dedicato al caso Cucchi. Ve ne leggo alcune righe perché comunque Travaglio sicuramente può piacere o non piacere, suscita sentimenti molto forti, però credo che tutti gli riconoscano di essere un grande esperto di questioni giudiziarie, quindi vi leggo appunto questa prima parte, la seconda parte in realtà, perché tutta la prima parte è dedicata a tutti i processi o alle sentenze che abbiamo sentito in questi giorni. Ciascun processo fa storia a sé, ma il dato comune è il dilagare dell'ingiustizia e dell'illegalità fra le classi dirigenti, con la conseguente sete di giustizia e di legalità che sale dalle vittime e finisce per scaricare sui tribunali aspettative esagerate. Soprattutto se poi i processi li racconta il primo che capita, totalmente digiuno di diritto o financo in malafede. Il giudice non è un professionista qualsiasi e la sua funzione non è paragonabile a nessun'altra. E poi trovate appunto l'editoriale in pagina 1 e poi continua a pagina 13. Ma passiamo alle pagine interne dei giornali, cominciamo a magari riprendiamo il Corriere della Sera, che ha un approfondimento su sprechi, truffe e corruzione, i reati di 13.000 dipendenti pubblici. Fiorenza Sarzanini, che è anche, parlavamo di esperti di cronaca giudiziaria, lei sicuramente lo è, e quindi ha spulciato questo rapporto della Guardia di Finanza e della Corte dei Conti, da cui vengono fuori danni per 5,7 miliardi per l'erario, e c'è anche uno schema che divide questi danni in danni derivanti da frodi al bilancio nazionale all'Unione Europea, quelli derivanti da contratti di appalto, quelli per affidamento di consulenze esterne, quelli legati alla spesa finanziaria, sanitaria, sappiamo spesso fuori controllo, quelli derivati dalla gestione del patrimonio pubblico e infine quelli che concernono i rapporti di pubblico impiego. Sempre dal Corriere della Sera, Michele Farina ci racconta quella che viene definita l'ultima crudeltà sulle ragazze rapite in Nigeria da Boko Haram, questi fondamentalisti islamici, che le ha obbligate a sposarsi, smentito l'annuncio di una tregua con il governo. Sapete, la Nigeria è un paese pieno di contraddizioni, perché l'economia che cresce di più in Africa, anche perché la Nigeria è un paese ricchissimo di petrolio, però poi appunto ha per esempio questa minaccia interna che viene dai fondamentalisti islamici di Boko Haram. Dalla Repubblica vi segnalo invece quel reportage che vi avevo detto, riportato anche in prima pagina, sul racconto dei tunisini pentiti che erano stati ingaggiati dagli islamisti, e hanno spiegato a Giuliano Foschini e Fabio Tonacci, che ne scrivono appunto a pagina 12 e 13 della Repubblica: siamo stati sottoposti al lavaggio del cervello per imparare a uccidere. Sempre dalla Repubblica vi segnalo un articolo di Emanuele Audisio da New York, perché oggi a New York si corre la maratona, come è sempre la prima domenica di novembre, la maratona di New York, quella forse una delle maratone più amate, con tantissimi partecipanti da 125 paesi, 50.000 concorrenti. Siamo alla 44esima edizione di questa maratona. Dalle pagine interne del Sole 24 Ore vi segnalo un approfondimento sul 730, sapete, il famoso modello per la dichiarazione dei redditi, che sono state annunciate tantissime semplificazioni, tra cui quello che sarà disponibile online, addirittura precompilato. Luca De Stefani ci spiega come, per accedere alla dichiarazione precompilata, bisogna registrarsi al canale telematico di Fisco Online. Dal Sole 24 Ore della domenica vi segnalo anche l'allegato Nova 24, con l'articolo principale di Roberto Manzocco: la vita registrata in una e-memory, i nostri dati, post su Facebook, per esempio gli SMS, saranno conservati in un cloud. Potremo così imparare dall'esperienza, a patto di farne buon uso, perché naturalmente il tema è come usare tutti questi dati che sono disponibili in questi cloud, in queste nuvole di dati. Infine, dal Sole 24 Ore, dal dorso di Finanza e Mercati, un approfondimento su MPS. Il Monte dei Paschi di Siena, sapete, non ha superato gli stress test di domenica scorsa, in grandissima difficoltà. Ora è in arrivo quel maxi aumento di capitale che viene richiesto appunto a chi è stato bocciato in questi stress test. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo nelle pagine interne dei giornali per vedere un po' le cose particolari che ogni quotidiano ha. Ecco, allora, dalla Stampa, secondo me bellissimo reportage di Domenico Quirico dal Burkina Faso, questo paese dell'Africa, ancora, abbiamo detto prima, della Nigeria, che dal punto di vista della crescita del PIL è la più veloce in Africa. Ecco, il Burkina Faso è in una situazione molto diversa, e probabilmente anche per questo, quando l'ultimo presidente aveva annunciato questa settimana che avrebbe voluto cambiare la Costituzione per restare al suo posto, sono scoppiate le proteste, e ora non si sa bene il destino del Burkina Faso, perché ci sono ben due persone che vorrebbero farne il presidente. Ma Domenico Quirico si dedica alla storia del Burkina Faso e quindi ci spiega: rivive l'utopia del presidente eroe amato dal popolo. Questo infatti era Thomas Sankara, che fu ucciso nel golpe del 1987, ma che, secondo Quirico, secondo anche molti altre persone, è l'ispiratore di questa primavera nera che ha cacciato l'ultimo Rais Blaise Compaoré, che appunto dall'87, quindi per 27 anni, ha governato il Burkina Faso. Voleva andare avanti, le proteste lo hanno fermato. Dalle pagine interne della Stampa la storia ce la racconta Enrico Martinet, di Denis Urukbo, che vuole essere il primo alpinista al mondo a scalare il K2 d'inverno. Partirà infatti a dicembre con due compagni alla conquista di questa montagna difficilissima. Poi ricordate, sicuramente avete sentito della Spaceship 2 della Virgin, che si è schiantata nel deserto della California pochi giorni fa. Era uno dei test che Virgin e il suo proprietario, il miliardario Richard Branson, stanno dedicando a questo punto, questo sogno di turismo spaziale. E si era già già addirittura detto che il prezzo di questi viaggi nello spazio per i privati sarebbero stati di $250,000. Ora Vittorio Sabadin si chiede: disastri a catena, il turismo tra le stelle è finito? Dopo lo schianto della navicella è stata aperta un'inchiesta sotto accusa nuovo tipo di supercombustibile, ma Richard Branson ha già detto: non mi arrendo, i nostri voli saranno sicuri. Dalle pagine interne del Messaggero un approfondimento sulla spending review messa a punto dall'ex commissario appunto alla spending review Carlo Cottarelli, che sapete si è dimesso, ha però lasciato questa mole di dati venuta fuori dalle sue analisi: sarebbero possibili 14 miliardi di tagli. Il Cottarelli tornerà al Fondo Monetario Internazionale da cui proveniva e ha lasciato appunto questa eredità che poi si spera venga usata nel modo migliore possibile dal governo, e dice soprattutto che comunque molto della spending review dipenderà da quanto faranno gli enti locali. Dalle pagine interne dei quotidiani vi segnalo poi, come vi dicevo, l'Avvenire come sempre ha molti approfondimenti interessanti soprattutto sulle questioni internazionali. Per esempio si parla oggi a pagina 15 dell'annunciata missione della CEI, la conferenza episcopale, a Gaza e Sredot contro l'indifferenza. Ci sarà una missione appunto in Medio Oriente. Domani e martedì una delegazione guidata dal cardinale Bagnasco visiterà i quartieri distrutti nella striscia, la città israeliana bersagliata dai razzi palestinesi. Sono 60.000 le abitazioni distrutte in 2 mesi nella striscia, i 2 mesi di guerra di quest'estate, 4.564, ricorda l'Avvenire, i missili e i colpi di mortaio sparati verso Israele. Un approfondimento altrettanto interessante sui droni, sapete, questi piccoli robottini che volano e possono fare tante cose. Amazon li vuole usare per consegnare i libri o altre cose che si comprano sul grande sito di e-commerce. Sono stati usati per filmare moltissime cose, persino una sfilata è successo nel settembre scorso. Però ci spiega il Messaggero l'Avvenire: droni civili, l'industria decolla. La filiera italiana è già in prima linea, ci sono 70 aziende appunto italiane che si occupano di questi droni. E poi un altro approfondimento nelle pagine di Economia e Lavoro dedicato agli artigiani: il futuro negli antichi mestieri, con la crisi sempre più giovani, falegnami, corniciai o calzolai. Sono 17.000 in Italia le imprese che praticano tradizionali attività artigianali, ma guarda caso, dico io, il fisco non le agevola. Vi dicevo la maratona di New York, il giornale ha un approfondimento: c'è la maratona di New York ma gli italiani corrono via, siamo sempre stati il gruppo più numeroso dopo gli americani di come partecipanti. Quest'anno la partecipazione degli italiani è passata da 4.000 a 2.000, probabilmente anche appunto dovuta al costo, alla crisi, perché comunque una trasferta a New York è sempre costosa. Vi dicevo l'intervista a Rutelli, la trovate a pagina 9 di Libero, come il titolo scelto è appunto estrapolato dalla risposta che Rutelli dà quando gli viene chiesto di Renzi: Matteo, un mio allievo senza scrupoli, era nella mia corrente, ha sempre voluto rottamare la sinistra, Berlusconi ascolta tutti, lui fa da solo. Vi segnalo anche invece dal Fatto Quotidiano una, secondo me, bellissima intervista a Pier Camillo Davigo, un giudice, ha una laurea, ricorda il Fatto, oltre che in giurisprudenza e in scienze politiche. Il titolo è: mi immaginavo i corrotti con la lingua verde come i visitors, perché Pier Camillo Davigo naturalmente da molti anni porta avanti la sua battaglia contro la corruzione in Italia. Spiega il magistrato che racconta gli studi, gli inizi e Tangentopoli: la prima volta che ho interrogato un indagato per tangenti avevo di fronte un giovane uomo proprio uguale a me. Stiamo antipatici non alla gente ma a chi governa. La corruzione è un reato seriale, chi lo fa tutte le volte che ne ha occasione e con ragionevole certezza di impunità. E magari, insomma, ve la consiglio veramente questa intervista. Pier Camillo Davigo ha scritto anche dei libri, però in queste due pagine davvero sintetizza un po' il suo pensiero e anche la sua volontà di continuare a combattere soprattutto la corruzione. È stato naturalmente uno dei protagonisti di Tangentopoli, ma come sappiamo purtroppo Tangentopoli non ha posto fine alla corruzione in Italia. Abbiamo pochissimo tempo per guardare i supplementi culturali, naturalmente cominciamo dalla domenica del Sole 24 Ore. Vi leggo il breviario di Gianfranco Ravasi come sempre. Oggi la citazione è di Rainer Maria Rilke, il poeta tedesco. Dà, o Signore, a ciascuno la sua morte, la morte che fiorì da quella vita in cui ciascuno amò, pensò, soffrì. La morte come un fiore che sboccia dal terreno dell'esistenza che si è vissuta. L'immagine del libro delle ore di Rilke è nella linea della grande tradizione religiosa, ma è ben lontana dalla cultura contemporanea, aggrappata al presente come all'unico orizzonte che non ammette un oltre e che non ha in sé fecondità. Il poeta invece echeggia la voce che nell'Apocalisse scende dal cielo. Scrivi: beati i morti che muoiono nel Signore, sì, dice lo Spirito, e si riposeranno dalle loro fatiche perché le loro opere li seguono. Brutta morte non è solo quella di un incidente stradale, riprende Ravasi, è anche quella di chi vi giunge a mani vuote perché vuota è stata la sua vita. Morire è tremendo, osservava Erich Fromm, ma l'idea di dover morire senza aver vissuto è insopportabile. E poi naturalmente il memorandum di Roberto Napoletano, il nostro direttore, nostro di Radio 24 del Sole 24 Ore, dedicata a un incontro con Sandro Buzzi, un ingegnere di 80 anni che ha lavorato per la Cerutti, la cartiera Cerutti, e che spiega come il fisco e le vessazioni burocratiche in generale abbiano tolto agli imprenditori la voglia di investire. Dalle pagine interne tantissimi spunti, come sempre sul Domenicale, li vedremo poi più tardi anche dopo le 8:30 in Si può fare. Vi segnalo la decima lettera rielaborata da Antonella Antonia Paolini, un'immaginaria lettera di Giacomo Leopardi al Domenicale. Ci manca la società stretta, la trovate a pagina 3 del Domenicale. Gli altri supplementi, rapidamente la lettura del Corriere della Sera: in copertina c'è un'opera di Farah Ossouli, un'artista iraniana, e dall'interno vi segnalo un approfondimento su Cesare Beccaria, sapete, il grandissimo giurista dell'epoca del Manzoni, e forse abbiamo tanto, anzi senza forse, da imparare da lui, e visto che abbiamo parlato di questioni giudiziarie, una Milano glocal contro la tortura, la lotta per la giustizia da Beccaria a Manzoni in una città europea, in un'Europa ambrosiana. È 250 anni sono passati la pubblicazione del libro più famoso di Beccaria, Dei delitti e delle pene, e la biblioteca Braidense di Milano ripercorre quel secolo straordinario a cui appartenne Beccaria. Era l'ultima segnalazione che riesco a farvi per oggi. Un saluto, un grazie a Carmelo Lauricella in regia, che ha cercato di terminare i tempi. Una buona domenica a tutti da Giulia Crivelli.